get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, stasera in radio siamo alla nostra, intanto siamo alla nostra 237esima puntata, non so se mi spiego, si sente Manu? Non si sente niente? Pronto, pronto, pronto? Ma vi sentite quella? Pronto, pronto, no, di là non si sente niente. Quello si parla così. Pronto? Mi senti? Mi sentite? C'ha un senso tutto ciò? Non ha un senso. Bene. Tu sei tien. Ah. Parlo, ma si sente? Non senti niente in cuffia? C'è un problema? Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Vado? Allora, si sente? È tutto a posto. Benissimo, allora, c'è stato, questa è la diretta, lo sapete sempre, soprattutto le dirette del CLR sono così e a noi ci piacciono così. Allora, stasera in radio siamo Manuela che è Monica, Rosina che è la The Voice e Lucilla che sarei io. Questa che state ascoltando è la 237esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa, naturalmente all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito sugli 87.900 MHz. Allora, intanto le cose solite che diciamo, ma che sono importanti, e se volete contattarci potete farlo al telefono della radio allo 06 49 17 50. Oppure potete inviarci un sms o dei trillini di gradimento, come dice sempre la nostra Caterina che è in vacanza, al 339-8536-270. Ora, pertanto per proseguire, stasera abbiamo una sorpresa per voi, perché noi abbiamo qua un'ospite graditissima, scrittrice di racconti, alcuni già pubblicati, finalista alle 5 GL passate, gloriose passate da poco, agli inizi di giugno. Noi stiamo parlando di Alessia Muroni. Ciao Alessia. Ciao. Che è qui stasera con noi insieme alla sua musa ispiratrice, di cui poi sentirete la voce e capirete perché è una musa ispiratrice. Oh, e non che c'è Alessia che si è un po' risentita, va bene, però potete venire sotto a, ad accoglierla dopo quando usciremo, naturalmente. E Alessia ci leggerà a sua insindacabile scelta qualcosa dalla sua enorme produzione. Intanto grazie Alessia e benvenuta qui con noi. Grazie a te, a voi e benvenute anche a voi. Allora, no, io prima di leggere, sì, una scheggia, Alessia è una scheggia, però prima di leggere, incominciare il primo racconto di cui poi ci dirai qualcosa tu stessa, noi vorremmo chiederti, ma a cosa ti ispiri per scrivere i tuoi racconti? Allora, essenzialmente mi ispiro alla verità, a quello che vedo intorno a me, siccome sono... Per natura, per istinto, quello che vedo lo trovo sempre straordinariamente divertente, anche quando magari non proprio sarebbe così, non è colpa mia, è una mia tara mentale, allora è quello che mi ispira. Quindi i tuoi... Molti dei miei racconti sono autobiografici, sì. Autobiografici ed ironici, da quello che... Sì, anche se non scrivo solo cose ironiche, però insomma, okay. È una cosa che mi diverte molto. E quindi ci hai già detto che sono spesso autobiografici e ci hai già detto che trai ispirazione dalla vita quotidiana, dai fatti che, dagli accadimenti intorno a te. Bene, l'altra cosa che ti volevamo chiedere è Abbiamo detto che sei stata finalista alla 5GL, quindi tu al concorso sui racconti hai presentato un tuo racconto, sì, che è andato bene. Sì, sì, ha avuto un certo successo, devo dire. Ecco, e se ho capito bene, stasera ci leggerai proprio questo. Sì, si intitola Amore ed altri appetiti, e insomma ho pensato che era un buon inizio. Bene, anche secondo noi è un buon inizio, perché l'amore fa parte degli appetiti della vita, e quindi... Soprattutto perché è quasi ora di cena. Soprattutto perché è quasi ora di cena, dice Rosina anche. The Voice, che come sentite stimola l'appetito, e si è già aperto il buco nero dello stomaco sentendo queste stupende voci. Allora, io taglierei corto a questo punto. Noi vi abbiamo voluto fare questo regalo per l'estate, quindi i racconti di Alessia che ci accompagnano e ci augurano una buona estate a tutte. È la nostra ultima trasmissione, a settembre ci rivedremo, ma con gioia questa volta, da una produzione lesbica doc. Ok, Alessia, se vuoi incominciare, sì, prima un piccolo stacco musicale e poi Alessia, grazie. Happy man. It's going to be like that. not mine. Vengo qui per te, ragazza. Beh, la prima volta no. La prima volta Magalie entrò perché l'ora era tarda, il profumo delizioso e lei non ce la faceva più. Voleva solo sedersi e mangiare qualcosa. Il locale era molto carino, certo. Legni sbiancati, pietra scura, il giusto tocco high tech. Poi aveva notato quella bellissima cucina a vista, al di là del vetro. Il metallo di cappe e aspiratori si torceva come una gigantesca colonna vertebrale, lì sul soffitto. I piani da lavoro erano di pietra bianca. Sotto le cappe contò 10 fuochi, un campo da calcio di piastre elettriche, 3 forni a parete. Taglieri di legno, mortai di marmo, batterie di saliere, oliere, portaspezie, coltelliere come in un film horror, 1000 colori di verdure. E lei, la sua bellezza come il cuore di silenzio al centro di un tornado. Aveva dovuto strapparle lo sguardo di dosso per vedere gli innumerevoli aiuto cuoca. E poi glielo aveva riappiccicato addosso, quello sguardo. Adesso veniva solo per vederla. In mezzo alla baraonda della cucina, gesti veloci, lampi di coltelli, arcobaleno di verdure, giallo d'uovo, rosso sangue, lei era nera e mota come una lunga nota di flauto, alta e sottile. Capelli neri, ovale allungato, una gran parsimonia di gesti, eppure così tanta sapienza. Aveva pensato al teatro Kabuki, un'attrice che disegna un'intera storia con pochi gesti, mostrando l'orlo riverso di una manica. Dunque aveva preso questa abitudine. Verso le 12.30 scendeva dall'ufficio. Lasciava lì sulla sua scrivania quelle noiose faccende, l'editing, il layout, il copywriting, le telefonate dei seccatori e le querimonie della collega, la noia di una Parigi abbrutita dal calore estivo e il rientro a casa dal gatto nevrotico. Entrava all'esame d'Emilie e si sedeva sempre allo stesso tavolo, fronte cucina. In breve tempo camerieri ed avventori avevano accettato che quello fosse il suo territorio. Aspettava un po' prima di ordinare. Studiava l'ambiente, indagava il menù, compulsava accigliata la carta dei vini, ma quello che l'attirava realmente era il piatto del giorno. Le piaceva pensare che venisse studiato e cucinato appositamente per lei. Le piaceva cercare di immaginare come fosse nato, da quale intuizione, da quale desiderio forse segreto. Poteva esservi un'intenzionalità? Una discreta allusione? A volte se lo chiedeva e amava rispondersi sì. Poco alla volta era diventata qualcosa di più di un'abitudine. Era diventata la prima cosa a cui pensare la mattina. Apriva gli occhi un minuto e 35 secondi prima che suonasse la sveglia e il suo primo pensiero era entrecotte aux herbes de Provence, essenziale, riflessivo, a volte sorprendente. Souris d'agneau gingembre, adorava lo zenzero, poteva fare follie per la flore verde piccante di un piatto allo zenzero. Filet mignon en croûte d'amande, ah, lo sfarfallare lieve delle sfoglie. Si alzava già affamata e non c'era caffè e croissant che tenesse. Cercava allora di far marciare il tempo velocemente, quasi trattenendo il respiro, un'apnea lunga dalle 8.30 alle 12.30, fino al suo arrivo, lì, al suo tavolo, al suo giardino segreto. Dopo 20 minuti circa, chiedeva quale fosse il piatto del giorno. Nonostante fosse appesa proprio sopra la sua testa, Cédric, il cameriere che la serviva sempre, le porgeva la lavagnetta. Lei analizzava l'elenco degli ingredienti con la stessa intensità di un antico chiosatore di manoscritti. Tarte tatin aux champignons, pasta brisée, pancetta a dadini, funghi, panna, gruyère, aglio, prezzemolo, erbe di Provenza. Salade du pays, pollo, peperoni, fagiolini, cipolla, panna acida, prezzemolo. Crêpe cauchoise, farina, uova, latte, sale, mele Granny Smith, prosciutto cotto, panna. Alzava la testa, guardava oltre il vetro. Lei era lì, lunga lunga, bellissima. Si spostava di poco, dal suo piano di lavoro al fornello accanto. Mai oltre, comunque, il terzo fornello a sinistra. Tutto intorno era il Vietnam. Lei, no. Love will make you drink and gamble. Make you stay out all night long. Magalie attendeva un solo momento. C'era infatti un momento, proprio quello, ogni giorno. quando lei ordinava e l'ordine veniva trasmesso per misteriose aeree vie fin oltre il vetro. Allora lei poggiava il coltello sul piano e qualunque cosa stesse facendo, la guardava. Lei sapeva cosa l'aspettava ogni volta, viveva per quello. 3 intensi, tesissimi secondi. In 3 secondi la temperatura interna di Magalì poteva salire a dismisura, il sangue saltare a cascate lungo la colonna vertebrale. La vedeva muovere appena appena le labbra, come stesse ripetendo tra sé e sé l'ordinazione appena ricevuta. Poi abbassava lo sguardo, riprendeva il coltello e cominciava. Precisa, assorta, vagamente sacerdotale. Cucinare era il rito e la vestale era bellissima. Magalì ne tornava col cuore gonfio di devozione. Quel giorno era iniziato nello stesso identico modo dei 37 che lo avevano preceduto, domeniche prefestivi esclusi. Filet en croûte truff, grazie. L'invisibile messaggero alato partì, portando la sua ordinazione. 3 secondi, solo 3 secondi tra loro. Dopo qualche istante il cameriere arrivò, portando dei minuscoli amuse-bouche e un bicchiere di champagne. Turbata, alzò lo sguardo a interrogarlo. Il filet è terminato, ma se ha pazienza di attendere mezz'ora, Madame Le Chef sarebbe felice di prepararlo appositamente per lei. La guardò, annuendo appena con la testa. L'altra sorrise e l'arcobaleno entrò roteando nel ristorante mentre piccoli angeli intonavano Gloria in excelsis Deo esalando fremiti d'amore. Magalì si fece attenta. Da sotto il piano, quasi come un prestigiatore col suo coniglio, Madame Le Chef estrasse una casseruola. A sorpresa alzò gli occhi verso di lei, ruotando il manico della casseruola perché potesse sbirciarne il segreto. Magalì si sentì toccata fin nell'intimo. L'altra afferrò con le mani il contenuto, deponendolo sul tagliere. Un filetto intero, avvolto nelle sue fette di pancetta, tutto croccante sotto la legatura di spago. Con piccoli veloci colpi di coltello lo liberò del filo. Si spostò di 20 centimetri alla sua destra, ove si poteva indovinare il profilo di un vassoio. Un aiutante le porse su un panno un rettangolo di pasta sfoglia. Lo sollevò con entrambe le mani, poi lo poggiò con cura sul vassoio. Alla sua sinistra si materializzò una ciotola con un grosso pennello. Tenendo la ciotola nella destra, fece colare lentamente dal pennello una densa salsa bianca sulla pasta sfoglia. Teneva gli occhi bassi, ma Magalì pensava che vi fosse qualcosa di vagamente indecente nel modo in cui accarezzava col pennello lentamente la superficie della sfoglia. Non era possibile metterci così tanto tempo, neanche Botticelli avrebbe spennellato la sua Venere con altrettanta cura. Una nevicata bruna oscurò la cremosità lucente, mentre un tartufo nero veniva ridotto in scaglie. Il filetto, tenerissimo e infante, fu preso in braccio e adagiato sulla pasta sfoglia come in una culla delle fate. Ipnotizzata osservò quelle dita sottili chiudere la sfoglia a pacchetto, spennellarla di rosso d'uovo, pizzicarla con un paio di forbici aprendo piccoli becchi affamati. Una bocca di forno si aprì all'improvviso e ingoiò la creatura. In quel momento arrivò un'altra ordinazione e Madame non fu più sua. Magalì cominciò una lunga snervante attesa. Poteva immaginare il fagottello nel forno, il suo lento lievitare al calore, il piccolo domestico inferno della besciamella ribollente, la condensa di vapori aromatici. L'altra, di là dal vetro, pareva non ricordarsi più di lei. Ad un tratto Cédric poggiò sul suo tavolo il piatto. In una cornice rubensiana di patata alla Dauphine, 4 spesse fette di filet offrivano la loro lucente tumescenza. La pasta sfoglia tracciava tenui ghirlande dorate come cherubini, il tartufo occhieggiava malizioso, la besciamel spumeggiava lungo i bordi, bianca e densa, come un desiderio di mancata innocenza. Magalì afferrò le posate. La carne cedette allusiva, la pasta sfoglia si arricciò pudica per poi aprirsi in morbide curve, gocce profumate colorarono lente e spesse. Chiuse gli occhi e aprì la bocca. Ti accolgo nel mio corpo perché tu sei lei e in te ha trasposto il suo spirito. Il locale si andava vuotando, gli ultimi avventori tornavano al lavoro. Magalì poggiò le posate di traverso sul piatto. Appagata, compresa, soddisfatta, estasiata, sazia, ricolma, fecondata, rinata, benetta, lusingata, conquistata. Alzò gli occhi. Lei non c'era più. Richiuse gli occhi. Voleva ancora sentire in sé quel momento di perfezione, prima di perderlo, prima di perderla. Aprì gli occhi e lei era lì, seduta al suo tavolo, proprio di fronte a lei. Gli occhi bassi, le belle mani allungate sul tavolo, l'una accanto all'altra, finalmente in riposo. Magalì sorrise e l'arcobaleno infranse le vetrate. E questo era Amore e altri appetiti di Alessia Muroni. Io trovo che sia un racconto molto erotizzante per certi versi. Assolutamente. Smettila, non... portatela via, purtroppo è così. Dunque, no, questo è un racconto, abbiamo detto, il racconto che è stato finalista alle cinque giornate lesbiche. E bello, devo dire molto bello. Io ho avuto l'occasione insieme a Lucilla di leggerlo prima di questa presentazione in radio e l'ho trovato molto, molto divertente, molto bello, molto erotizzante, proprio per questo fatto che spesso appunto cibo e sesso in qualche modo si accompagnano. Lucilla mi toglie le parole di bocca, chissà che non le facciano schifo tutte bagnate di saliva. Cosa, al famoso Bugliaccaro che mi ha servito il filetto al sangue qualche giorno fa nella perfida bettola dove mi sono recata, così si fa la cucina, non come la fai te. Comunque purtroppo quando a me mi si avvicina un cameriere è solo per dirmi: signori, sposti da sto tavolo il suo fondo schiena perché non è il caso che resti qua. Alle volte non ti dà neanche del lei. Quindi volevo chiedere, questo racconto è un racconto autobiografico? Cioè ti è capitato effettivamente di trovare in questo posto splendido e di vedere questa chef lavorare di coltello e di pennello per la tua cena, oppure... Allora, no, devo dire che il ristorante a cui mi sono ispirata esiste ed è a Roma. La chef è bravissima. La chef è bravissima, ma non è proprio così. Non è bella così come... Vabbè, però insomma, lavorando di fantasia si può ottenere molto. Va bene, allora questo era il primo racconto che Alessia ci ha regalato. E adesso vi ricordiamo naturalmente che siete sempre all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, in onda sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Se ci volete sentire potete farlo attraverso il sito della radio www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è, lo ricordiamo, www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sulla icona in diretta per essere subito in contatto con noi. Se volete mandarci un messaggio potete o telefonare in radio allo 06 49 17 50 oppure appunto inviarci un SMS sul nostro cellulare di servizio che risponde al numero 339 85 36 270. A questo punto io direi che possiamo andare avanti con la lettura del secondo racconto. Ci puoi dire il titolo? Che noi non conosciamo, tra l'altro, nessuna di noi, è una prima anche per noi. È una prima assoluta. In realtà non è un racconto, questa è proprio un'autobiografia. Bene. Quindi tutto ciò che ha detto lo dico sotto la mia responsabilità. Si tratta di un'autobiografia infantile. Quindi bene, noi ci dissociamo già da subito, ovviamente. Sono arrivata al settimo ottavo anno, quindi prima che io vada oltre. Non diciamo la tua età perché per le signore, come si sa, è politicamente scorretto dirla, quindi non la diremo, per cui attendiamo però ovviamente gli altri anni successivi, che sono, vabbè, un discreto numero. E qui... Grazie, ti voglio tanto bene. Lo so che mi ami, ci amiamo vicendevolmente, perdonaci Nicolette, purtroppo questa cosa è andata così in onda, in diretta, e vabbè, pazienza. Allora... Le cose che accadono non accadono in ordine alfabetico di Alessia Muroni, autobiografia di un'infanzia lesbica. Esatto. Dunque, la struttura di questa autobiografia è in piccoli capitoli che saranno introdotti capitolo per capitolo, insomma, da un titolo. Allora, ripartiamo dal titolo. Le cose che accadono non accadono in ordine alfabetico. Autobiografia di un'infanzia lesbica. Questa è lei. Ho avuto l'idea per questo libro facendo l'amore con la mia ragazza. Non se ne abbia male la mia dolce metà, per favore. Data la situazione, è stato molto meglio che ricordarsi di non aver cambiato la sabbietta del gatto. L'oggetto d'amore. Avevo 2 anni e mezzo, 3. Ero comunque ancora single, nel senso che mia sorella non c'era ancora. Vivevamo ad Erba, dove sono nata, sulle rive del lago che tutti gli italiani alfabetizzati conoscono. Quel pomeriggio eravamo tornati, io e i miei genitori, da una qualche vacanza. Mi precipitai correndo in salotto e allargando le braccia gridai «Dudu, amore mio!» arrotando le M e le R. I miei genitori rimasero sbigottiti a causa dell'oggetto del mio slancio amoroso. L'oggetto è stato ingoiato da uno di quei lunghi corridoi del tempo in cui sprofondano tutte quelle cose che vorremmo ancora avere: oggetti, idee, sensazioni, persone care. Ne conservo ancora una foto, però risalente forse a quell'estate. Ci sono io, seduta su una poltroncina di vimini bassi. Bassa, scusate. I capelli biondi a sfiorare le spalle, i pantaloni rossi. E Dudu, uno squallido pupazzo antropomorfo vestito con un completo a scacchi, basco compreso, e la testa di cane di peluche. Questo per dire che l'amore è amore, in ogni caso. Oggetti e feticci. Passò poco tempo e la bimba col pupazzo divenne una, maiuscole, sorella maggiore, sebbene solo quattrenne. Credetemi, certe responsabilità si pagano. Io mi sto rilassando solo ora che ho un nipote, anzi due fra le braccia, e mia sorella è troppo felicemente occupata a fare la moglie, la madre, la donna in carriera per stare lì a recriminare su tutte le volte, tante temo, in cui non ho adempiuto al mio ruolo, anche senza le maiuscole. Quando lei nacque, mi hanno raccontato, mi limitai a buttare un'occhiata alla culla prima di chinarmi a prendere la bambola che, mi dissero, mi era stata portata in dono dall'esserino urlante. C'eravamo già trasferiti a Roma a quell'epoca. Come sarei stata? Come saremmo stati tutti senza quel cambio di binario? Avrei amato nello stesso modo? Avrei sofferto per le stesse cose? Avrei sognato altre cose per me? Guardo all'altra me stessa che non sono stata e passo oltre sperando di aver preso il binario giusto. Amo le fotografie, quindi ne parlerò spesso. Una mi vede, forse, un anno prima della love story con Dudu. Ho i capelli corti, ma acconciati con una strepitosa rosa rossa, un vestitino blu con sottogolla di sangallo bianco, calzettoni di cotone bianco traforati e scarpe di pelle bianca col bottoncino. Sono in braccio a mia zia Agata, una vera autorità nella mia vita. Fu lei a portarmi spesso nei musei da piccola e a regalarmi libri, fomentando senza saperlo due delle mie maggiori passioni, appunto l'arte e la lettura. Incontrai l'estasi precocemente. Accadde all'incirca intorno ai miei 6 anni. Venne portata ai musei capitolini e condotta lungo corridoi e stanze fino a che i miei piedini non si inchiodarono, perentori, davanti a una statua. La mia prima folgorazione estetica la ebbi lì, davanti al Carlo X d'Angiò di Arnolfo di Cambio. Un agglomerato calcareo, squadrato e orrendo, ingrigito dai secoli e della quasi totale indifferenza dei visitatori, tagliato con l'accetta, che se ne dica. Eppure io venni travolta da anomala passione e mi rifiutai di muovermi di lì nonostante le suppliche di mia zia e le blandizie di un custode accorso in suo aiuto. Mi smossi ore dopo, solo quando mi fu girato che, no, in effetti non potevo portarmi a casa il venerando monolito, ma potevo almeno comprare una cartolina. E mentre il perfido Angiò registrava il primo successo di merchandising della sua storia, io me ne andai vittoriosa, brandendo proprio quella cartolina. Questo sempre per dire che l'amore è comunque amore e che ha anche bisogno di feticci. Cugine. Nella foto successiva la faccenda si complica. Ora ho 5 anni, camicia a scacchi verde, kilt beige, bretelle a righe verticali blu e rosse. Ehi, sono gli anni 70. E sorrido con l'aria di chi la s'allunga annusando un mazzolino di Tagetes Erecta arancioni. In italiano, oltre a garufanini d'India, si chiamano anche puzzoloni, quindi non vedo che cosa ci sia da essere così soddisfatti. Attorno a me ci sono 2 ragazzine di poco più grandi, le mie cugine. Con le mie cugine ho conosciuto le gioie del sesso. Con le mie cugine ho conosciuto le gioie del sesso. Con le mie cugine ho conosciuto le gioie del sesso. Con le mie cugine, lo posso dire, non è reato, eravamo tutte minorenni e io comunque ero la più minorenne di tutte. Queste 3 grazie, dall'età rispettiva di 4, 6 e 7 anni, fino ad epoca imprecisata hanno giocato al dottore fra i filari della vigna che una volta si stendeva davanti casa mia. Concordo con la Yorsenar, ogni età ha i suoi amori e i suoi desideri. Chissà se le mie 2 cugine se ne ricordano ancora. Io non tanto, ma quel che ho imparato allora, come dire l'arte, l'ho messa da parte in attesa di tempi più propizi. Primo giorno di scuola. A 6 anni il vero trauma fu la scuola. Intendiamoci, io sono sempre stata la prima della classe. Voglio dire, di quelle proprio brave, coi voti più alti. Dalle elementari alle medie, alle superiori e poi oltre, fino al dottorato, attraverso 2 lauree che stanno diventando 3. Ma non sono mai stata secchiona, niente bastardaggine, lo giuro. Però quel giorno fu traumatico. Mia madre mi lasciò nel corridoio di questa scuola vecchia se non antica, quelle scuole rurali della campagna di una volta. Adesso è un centro di riabilitazione post-trauma. La mia vecchia scuola. Cominciai a urlare con tutte le mie forze, simil sirena, fino a quando le bidelle non corsero come Doberman dietro a mia madre e non me la riportarono. Quando arrivò, la comparsa del direttore, incredibilmente somigliante ora che ci penso a Bruno Vespa con molti capelli, non aveva migliorato la situazione. Comunque mia madre, teutonica nell'animo e nell'aspetto, non cedette e io fui trascinata nella mia aula. Ricordo solo che c'erano dei giganteschi cactus nei corridoi, alla faccia di qualsiasi elementare senso dell'opportunità con tutti quei bambini, e che mi sedetti in lacrime accanto ad una bimba di nome Carolina. Le invidiai ferocemente il nome, quasi esotico alle mie orecchie, per quanto appena pochi anni dopo, all'epoca della mucca Carolina e di Susanna Tuttapanna, dovesse rivelarsi una vera iattura. Ma io sapevo disegnare, mentre lei no. Allora io disegnai una casa col sole e lei vi scrisse il mio nome che io non sapevo scrivere. E io feci il suo disegno, su cui lei scrisse il suo nome. E facemmo tutte e due una splendida figura con la maestra. Insomma, si cementò un'intesa intellettuale che sopravvive ancora. Ai miei tempi a scuola c'erano i premi e le punizioni. Adesso, se una maestra sgrida un bambino, è passibile di denuncia. A noi invece le maestre potevano fare quasi tutto. Loro, i bimbi d'oggi intendo, il trauma ce l'avranno quando scopriranno la vita. Noi la tramba, termine vernacolare romano che sta per botta come quella del tram che ti prende frontale, l'abbiamo presa subito e stiamo ancora in piedi. Comunque nella mia scuola c'era questa cosa delle cornicette. I lettori più giovani non se ne turbino. Le cornicette erano dei motivi decorativi geometrizzanti utili ad ingentilire una, maiuscola, pagina in bella grafia. Sembra Fogazzaro, eh? E invece no, sono solo 30 anni fa. Certo, era il XX secolo, cioè in effetti un altro secolo. Dunque, se tu eri stata brava, buona e bella, arrivavi ad ottenere il permesso di fare una cornicetta. Addirittura questa cosa avveniva in trasferta. Cioè uscivi e andavi nella classe accanto, ove la maestra Bruna sottoponeva l'intera classe all'esercizio zen della cornicetta. Lei sulla lavagna, noi sul quaderno a quadretti. Un trattino orizzontale, poi uno inclinato verso il basso, poi un trattino orizzontale, poi a risalire inclinato su verso l'alto. Su, giù, dritto, in alto, più in alto, altissimo. Nella ripetizione e nella reiterazione l'anima trasfonde tutta se stessa nella concentrazione sublime e crepuscolar divenire. Uscivano fuori trecce, ghirlande, gattini, uccellini, eccetera, anche a colori. Ma l'apoteosi del premio, dalla quarta in poi, era qualcosa di estremamente snob. Ottenevi il permesso di cercare le parole sul dizionario. Come premio per essere stata buona, brava, bella, ti veniva dato un brano da leggere, di cui dovevi sottolineare le parole che non conoscevi e poi cercarle sul dizionario, così diventavi ancora più brava. A scriverlo adesso, così a ripensarci, si capisce che era proprio un altro secolo. A un certo punto però la mia ansia intellettuale trovò un nuovo alimento. Fu quando scoprii che nel dizionario si trovavano anche parolacce e termini anatomici di utilità oscura ma chiarissimamente proibiti. Temo di essere stata scoperta a un certo punto. Purtroppo per me era un dizionario enciclopedico e c'erano anche disegni. La maestra mi tolse il volume di mano aperto alla V con disegno. Fui consigliata di leggere e basta. Ero così brava che godevo dell'immunità scolastica. Grimilde. Quando si comincia a fissarsi sull'oggetto amoroso? Quando si decide che un certo viso, un certo accostamento di colori richiamano in noi qualcosa che è così primordiale, spontaneo e bruciante che è subito amore? Posso rintracciare alla base della mia vita amorosa e sessuale, che non sono la stessa cosa, tre elementi fondamentali, due di natura estetica, uno di natura per così dire ambientale. Il primo elemento estetico è Grimilde. Grimilde, la matrigna di Biancaneve nell'omonimo film Disney. Non nella fase da strega cattiva con la mela avvelenata, ma in quella appena precedente, irresistibilmente fetish. Abiti neri aderenti, lungo mantello nero, cuffietta. Di recente qualcuno ha scritto un saggio iconografico su di lei per spiegarne le tangenze pop, il che mi ha vagamente offesa, come se a una vestale fosse stato proposto di installare una stufa a gas nel tempio della dea. Che diamine! Incontrai Grimilde a 6 anni circa, al cinema. Altro che quella sciacquetta melenza di Biancaneve, incombeva sullo schermo riempendomi di deliziata vertigine. Me ne è derivato un amore senza limiti per il nero, incidente su circa il 95% del mio abbigliamento, e una passione esagerata per le donne magre, pallide, con occhi neri, capelli neri e folte sopracciglia d'ala di gabbiano. Se sono anche giocosamente cattivone, è fatta. E Oscar? Alzi la mano chi, ancor bimba, lesbica in pectore, non abbia trovato nella rosa di Versailles un raggio di speranza. Anche se le facevano amare un uomo per bieche esigenze commerciali, doveva pure essere esportata verso il puritano occidente banalmente etero, Oscar era inequivocabilmente lesbica. E grazie a lei, molte di noi ebbero almeno un esempio, un modello, un mito fondante. E io pure. E ancora Oscar. Eh sì, riparliamone. Lady Oscar aveva questo problema fondamentale di essere una femminuccia quando il buon padre, quell'idiota mentecatto, voleva un maschietto. E allora tu, padre deficiente, se ti nasce una femmina, che fai? Invece di provare a scoprire se per caso non è una figata o provare a farti una ragione e ringraziare il cielo che almeno hai dato prova di essere fertile, che è già qualcosa, o invece di risposarti per dare una seconda chance alla natura, tu, padre imbecille, che fai? Cedi al tuo inconscio nichilismo e allevi una travesta, che va anche bene, ma non è mica facile. Quindi la poverina cresce travestita da uomo e le insegnano a fare la pipì in piedi, una scomodità notevole, peraltro, se ci ho provato. Beh, magari le sarebbe piaciuto avere un vestitino rosa per Natale, tu invece giù, soldatini e moschetti a pallettoni, seppur in miniatura. Lei diventa in ogni caso una figa allucinante, lunghe gambe sottili, occhi stellati, viso nobilmente preoccupato, folte chiome fluenti, e qui la musica cambia dolorosamente, con grave danno delle piccole teleutenti italiane. Infatti Ryoko Ikeda, l'autrice del manga di partenza, aveva pensato Oscar, se non apertamente come lesbica, comunque come un personaggio sessualmente sfumato, diciamo. Il manga e l'anime nella versione originale lasciano aleggiare sempre intorno ad Oscar un alone di speranzoso mistero. Non ci dicono che Oscar è lesbica, ma ce lo fanno sperare? Noi no. Noi italiani, qui in Italia, la patria dei misteri, il paese dell'omertà e dei muri di gomma, dove ogni definizione è per principio imprecisa e le leggi vengono fatte per permettere interpretazioni perfettamente opposte, contraddittorie e comunque giuste, il paese dove nessuno dice la verità vera, il paese dove non si sa mai chi mette le bombe, chi abbatte gli aerei, chi prende le tangenti, noi italiani di fare questa vigliaccata, di lasciare questa ambiguità, non ce la siamo sentita. No, e abbiamo tagliuzzato scene, stravolto significati, riscritto totalmente dialoghi di metà anime. Così questo almeno lo abbiamo chiarito in Italia, che Lady Oscar è eterosessuale. Sempre Oscar, per sempre. Per fortuna, noi bambine di allora, noi che nel 1982 sapevamo che Oscar aveva un sottotesto, per quanto ignorassimo il termine lesbico, noi siamo cresciute con una convinzione precisa che ci ha illuminato la strada in giorni assai bui per le autocoscienze adolescenziali. Lady Oscar era una di noi. E mia madre? Torniamo terra terra. Non è la solita storia del rapporto madre-bambino, il complesso di Edipo e quello risibile di Elettra. È che non esiste lesbica che io conosca che non abbia avuto una madre, come dire, forte. Quel genere di madre panzer che o ti adegui, autoritaria e autorevole, decisionista, implacabile, incorruttibile, splendida. Una madre che si erge come un idolo sul tuo cammino e che non è che puoi girarci attorno. Ecco, io l'ho avuta e anni dopo, prese le necessarie distanze, è pur lì che continua a svettare. Padri? Sì, che teneri. Una madre così ti fa capire subito che il mondo è delle donne. Come fai ad amare qualcos'altro? Insomma, Alessia, ma qual era il tuo nome prima che tua madre e tuo padre si incontrassero? La Yorsenar parla di questo paradosso zen. Io non saprei, ma in questa vita me ne sono toccati ben tre di nomi, non di paradossi. Alessia. La cosa triste è che questo nome i miei genitori non l'hanno scelto per motivi banali, tipo mi piace da impazzire, o ho sempre pensato che se avessi avuto una femmina l'avrei chiamata così, o solo a pronunciarlo mi dà un brivido di felicità. No, l'hanno preso dal cognome di un collega di mia zia Santina che lavorava negli uffici della Steffer, società tranvie e ferrovie elettriche di Roma. E manco lo conoscevano questo. Non riesco a immaginare niente di più inconcepibilmente squallido. Comunque aveva il pregio di essere all'epoca insolito. Non ho incontrato un'altra Alessia fino all'età di 21 anni. Poi sono uscite fuori tutte insieme. E la maggior parte facevano la velina, avevano 10 anni meno di me e quindi non rientravo nella casistica. Santa. Qui fanno tutti delle trite ironie, quindi lasciamo stare, sì, mi chiamo anche Santa. Giulia. C'è una santa parecchio curiosa con questo nome, parliamone con serenità. Innanzitutto però ci sono altre Giulia. C'è Santa Giulia Cartaginense, dedita alle crociere sul Mediterraneo e martirizzata per crocifissione sotto Diocleziano, un must per i cristiani fra III e IV secolo. E poi c'è Santa Giulia di Nonza, Corsica, ottima contabile del suo padrone pagano, ma che rifiutandosi di sacrificare agli dèi fu crocifissa dopo che i seni le erano stati strappati e buttati, virgolette, davanti a un masso, dice un antico manoscritto conservato nell'archimonasterio di San Remigio a Reims. Davanti a un masso. Perché proprio lì? Perché non 10 metri più in là? Fatto sta che il giorno dopo da quel masso scaturì una fonte d'acqua calda che diede avvio all'industria termale locale. Peraltro, sono certa che il senso degli affari di Giulia abbia molto apprezzato l'indotto economico seguito alla sua avventura. I corsi. Da Cipollata in poi un altro mito. Chi è Cipollata? Ma che faccio tutto io? Torniamo a Santa Giulia. C'è questa Julie Billiard, nata nel 1751, aristocratica, super indenne la rivoluzione francese pur azzoppandosi per un incidente. Nel 1804 fonda con un'amica una comunità femminile che diventa educandato per fanciulle. Viene allontanata dal suo educandato per decisione del vescovo di Amiens, che aveva dato credito a voci calunniose su di lei. Ma l'intera comunità trasloca solidale da Amiens e finisce a Namur in Belgio, dove il vescovo ha altro da fare che star dietro ai gossip. E così vissero tutte felici e contente nella loro bella comunità femminile. Penso male? Mi piace pensare che penso bene, benissimo. Insomma, fatemi sognare, sono stata chiamata col cognome di un impiegato della Steffer. Banale. Comunque, la mia vita amorosa iniziò, mi duole dirlo, con due precoci e banali innamoramenti per maschietti. Uno rispondeva sorprendentemente al canone Grimilde. Era magrissimo, bianco, nero di occhi e di capelli, grandi sopracciglia. Aveva avuto un braccio rotto ed evidentemente mal riparato, e questo lo faceva muovere in un modo strano che mi colpiva molto e che costituiva il suo sostanziale fascino. Faceva presa su di me, probabilmente su quello stesso lato che si intenerisce per i gattini abbandonati, i canucci zoppi o guerci e le piantine appassite. Grimilde fu sostituito presto da un secondo maschietto che, se non altro, si segnala per essere stato, molti anni dopo, il mio fidanzatino delle medie. Per un quarto d'ora lo baciai e fu come applicare le labbra su una lumaca e finì lì. Non volevo intristirvi, è che è andata proprio così. Odio il mare. Ma la colonia... Odio il mare, mai sopportato. Eppure, fra i ricordi di reale felicità della mia infanzia, due sono legati al mare. Il primo temo sia molto prosaico. All'epoca avevamo ancora meno soldi di oggi e quindi, anziché fare le vacanze come apparentemente tutti quelli che abitavano la stessa nostra porzione di orbe terraqueo o che partivano per lì di lontani, noi andavamo al mare vicino Roma, andata e ritorno in giornata. Castel Porziano, di solito. L'elemento militaresco della mia famiglia si manifestava, fra le altre cose, nell'ora di uscita da casa, ore 06 del mattino. Così si arrivava primi. Ma perché, c'era una gara? Io non ho mai visto altri partecipanti. Se c'erano, arrivavano con tutta calma verso le 9. Comunque noi eravamo già lì e dopo il bagno al mare alle 7 del mattino, acqua gelida ma pulita, avevamo già fatto colazione. Con la pizza romana, quella alta, bianca, unta e col sale grosso e la mortadella tagliata di fresco. Ne ho mangiata di roba da allora, ma la fragranza di quella pizza ancora calda di forno e di quella mortadella tagliata alle 6:15, anche il pizzicagno lo stava facendo il militare, rimane nel ricordo inarrivabile. L'altro ricordo è più esotico, rimandandomi ai tempi della colonia. Mio padre era finanziere e la guardia di finanza allora aveva la colonia marina. I bimbi erano ospitati in una villa vicino Loreto, nelle Marche, che normalmente ospitava la scuola ufficiale o qualcosa del genere. Contrariamente a quel che si può pensare, passati i primi 2 giorni di sbarellamento emotivo dovuto all'allontanamento dai genitori, noi bambini stavamo benissimo. Dimenticavamo genitori e tutto e trovavamo la dimensione di un'indipendenza prima di tutto mentale che valeva oro. tirate fuori le bestie che erano in noi, stabilite le gerarchie del branco, il resto era tutto divertimento, senza nessuno a romperti i coglioni, perché le signorine erano severe, ma insomma avevano al massimo 20 anni ed erano più che altro interessate alla tintarella. La villa era bellissima, il cibo buono, io ero una piccola campionessa di biliardino e poi c'erano due cose, la Lucia e l'alzabandiera. Della Lucia ricordo i capelli neri lunghi e la peluria sulla schiena, imbiondita dal sole. Le piaceva che le accarezzassi la schiena sollevando contropelo quella peluria d'oro. Oddio, non era pelosa come un furetto, era pur sempre una bambina, ma era tipo pesca. A me piaceva farlo e poi scoprii che mi piaceva farlo facendomi solleticare le labbra da quel ben di Dio pilifero. Era un bel gioco, su e giù con la bocca lungo quella schiena vellutata. Chissà dove sarebbe potuto andare a finire. Purtroppo fummo scoperte dalla signorina di turno un pomeriggio durante il sonnellino. Non disse nulla, solo da quel momento in avanti ci piantonò costantemente. Se ai miei genitori non fu comunicato allora, glielo comunico io ora. Oltre alla Lucia, quello che mi esaltava era l'alzabandiera. Non so se esistono ancora le colonie della Guardia di Finanza e non so se fanno ancora l'alzabandiera. Io ero la prima ad arrivare sul campo, talmente entusiasta che venivo scelta quasi ogni giorno per srotolare e alzare la bandiera la mattina e farla scendere la sera porgendo all'ufficiale, autentico, la bandiera. Intanto gli altri cantavano «Dell'elmo di Scipio se cinta la testa», mentre un altro autentico militare suonava la tromba, eccetera. Fascismo? No. Rituali. A me piacevano. Dialogo sui massimi sistemi. La colonia mi vede protagonista di un surreale dialogo. Fate attenzione ai bimbi quando giocano. Parlano fra loro, scherzano, litigano. Io ricordo questa conversazione con altri 3 o 4 compagni, maschi e femmine. Siamo seduti a terra nella pineta, giochiamo forse con delle macchinine o simili. Non riesco a spiegarmi perché dei bimbi di 7, forse 8 anni siano lì seduti a giocare con le macchinine e all'improvviso discutano sui massimi sistemi, ad esempio come si fanno i bambini. Non ricordo le teorie esposte, sicuramente estrose. Nessuno poteva dire di avere notizie fresche o di prima mano in proposito. Ma suppongo che qualcuno alla fine abbia esposto questa teoria del coso di papà dentro la cosa di mamma. Ricordo me stessa in questa occasione affermare con veemente convinzione: io non lo so se è vero, ma per come li conosco io, mai e poi mai potrebbero fare una cosa del genere. Il che potrebbe dirla lunga sull'educazione cattolica in qualche modo ricevuta. Siamo tutti un po' figli di un piccione con l'aureola. Piccola iconologia. Il mio esordio come storica dell'arte iconologa risale ai 3 anni. Mi trovavo in braccio a mia zia Agata, che volle forse cominciare a inculcarmi i principi base dell'iconografia religiosa. Approcciammo dunque un'immagine della Madonna del Divino Amore in ceramica affissa nel portico di casa sua. Questa cos'è? A Madonna. Brava zia. E questo? Vino Gesù. Brava tesoro. E questo qui in alto? Pollo. Mia zia si grattò la testa. Lo Spirito Santo era un concetto astratto persino per lei. Perché aggravarne un'infanzia ancora neanche in boccio? Rientrammo per fare merenda. Pallida dama. Un mio amico un giorno mi raccontò di questa cosa che io comprendevo benissimo. Cioè che da piccolo amava uscire la sera in giardino e guardare la luna. Immaginava che dentro vi abitasse una dama dalla pelle bianchissima e dai capelli d'oro. Lui da questa qui voleva essere adottato. Io lo capisco, voglio dire, comprendo questo desiderio di altrove. Lo stesso motivo per cui viaggiando mi trovo ad osservare vite e case altrui e sogno di estirpare le mie radici e piantarle ovunque non siano ora. Comunque le contemplazioni del mio amico ebbero fine la sera in cui mise a parte la zia Margherita dei suoi sogni e quella per tutta risposta gli fece una lezione su equinozi, pleniluni, parallassi e maree. Lui non mise mai più piede fuori di casa la sera. Io spero di essere una zia meno pedante con i miei nipoti. E ci sono buone speranze. Infatti mia madre, che è loro nonna, quando non volevo mangiare faceva il gesto di spargere sul piatto qualcosa, poi annunciava trionfale che aveva cosparso il mio piatto della magica polvere di stelle e io zitta ingoiavo le sbobbe peggiori. Poi andavamo a fare una passeggiata dietro casa, nei campi su cui adesso stanno costruendo quell'orrore consumistico che si chiama Porta di Roma. E arrivate nei pressi di 2 vecchi silos a torretta con il tetto a tono a Cono e il gallo segnavento, mi diceva di stare zitta perché le fate erano nel castello e forse potevamo vederle. Passavamo lunghi minuti in speranzoso silenzio. Coltivavamo l'attesa e il desiderio. Ecco perché da grande poi vai ancora in giro ad aspettare la pallida dama. Allora, eccoci tornate alla realtà dopo questi due splendidi pezzi letti dalla nostra Alessia. Noi ci siamo dovute tappare la bocca diverse volte perché ci scappava da ridere, non volevamo sbruffare vicino ai microfoni le nostre risate. Beh, profonde verità dette con leggerezza, grande ironia e con veramente decisamente amore. Grazie Alessia, perché è una cosa splendida. Io non so, ma qualcuno che voglia pubblicare questi splendidi racconti, Alessia ce ne ha letti due, ma c'ha varia roba e c'ha anche un romanzo, sì. Quindi è una fucina, questa donna è una cosa eccezionale. Questo è il suo tenore e noi pensiamo che scrivere qualcosa come guardare il mondo con i nostri occhi, attraverso lo sguardo e l'esperienza altra, sia una cosa di grande arricchimento per noi lesbiche naturalmente, ma per tutte e tutti. Non so, Rosina, vuoi dire qualcosa? Sì, Feltrinelli, dove sei? Non so, la terza. Bompiani, chi più ne ha più ne metta. No, niente, non voglio dire nulla, voglio dire soltanto grazie ad Alessia e a Nicolette che ha sostenuto Alessia in questa fatica, voglio dire grazie perché questi racconti veramente sono stati per me arricchenti, molto divertenti. Tra l'altro io e Alessia abbiamo su per giù la stessa età, quindi siamo state bambine nel Mato Grosso, io amo dire, per cui mi ricordo anche io di queste traversate di Roma estiva per andare proprio a Castel Porziano, guarda un po', con mio padre che alle 5 del mattino buttava giù tutti quanti dal letto perché sennò si trovava il traffico, per cui si arrivava lì e poi si andava via nell'ora più calda, no? Trascinandosi dietro tutte le sedie, esatto, esatto. La piella con le manzane avanzate. Noi per fortuna non arrivavamo a tanto, soprattutto non c'era nulla che avanzasse perché ci spazzolavamo tutto, per cui questo ci è stato risparmiato. Però mi ricordo, mio padre c'aveva questo vecchio taxi, era una 124 gialla. Beh, sai quella con i sedili di finta vera pelle di coccodrillo sieropositivo, no? Rovente, capito? Per cui poi non si usava all'epoca, noi non usavamo la crema solare. Assolutamente mai, solo quella nivea spalmata, ammanate a mano larga. Si vede che voi eravate ricchi, perché noi neanche quella non ci si pensava proprio, per cui io tornavo a casa sempre ustionata, però poi volevo sempre ritornare, ma ci si andava poco perché avevamo una casa in campagna, quindi ci toccava. E va bene, e anche Lady Oscar, devo dire, mi ha ricordato molte cose, purtroppo è vero. Va bene, a questo punto noi pensiamo di poter finire qui per questa, diciamo, sezione di trasmissioni. Ritorneremo a settembre cercando di estorcere la promessa ad Alessia di tornare qui da noi e molto di volentieri raccontarci ancora altre cose per tenerci compagnia. Quindi veramente questo, io non so se qualcuna o qualcuno in ascolto può davvero fare delle cose, però se mai avesse notizia di qualcuno interessato alla pubblicazione di questi racconti ci può contattare magari al nostro indirizzo mail che è contatti@clrbp.it oppure chiamarci al Buon Pastore il giovedì sera al 6864201, cerchiamo di trovare una soluzione. Ale, e noi ci proviamo a non credere che sia così semplice ovviamente, ma non si sa mai. A questo punto ho ingoiato la gomma da masticare, deve essere la fame. Lucilla, tieni il microfono. Allora, lei si sta strozzando, noi andiamo a magnà.